Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Don Sebastiano Sanna Carboni, alle 9 in punto, come tutte le sere, spinse indietro la poltrona. Piegò accuratamente il giornale che aveva letto fino all'ultima riga. Riassettò le piccole cose sulla scrivania e si apprestò a scendere al piano terreno, nella modesta stanza che era da pranzo, di soggiorno, di studio per la nidiata dei figli, ed era l'unica viva nella grande casa, anche perché l'unica riscaldata da un vecchio caminetto. Don Sebastiano era nobile, se è vero che Carlo V aveva distribuito titoli di piccola nobiltà agli autoctoni sardi che avevano innestato gli olivastri nelle loro campagne. La grande nobiltà, con tanto di predicato, era quasi tutta cagliaritana ed era praticamente straniera all'isola. Ma il doppio cognome era solo un'apparenza, altro non essendo il Carboni che il nome della madre, aggiunto al Sanna, il vero e unico nome di famiglia, un poco per l'usanza spagnola, un poco per la necessità di distinguere le persone nella poca varietà dei nomi determinata dalla scarsa popolazione. Ogni bifolco in Sardegna ha due cognomi, anche se poi sull'uno e sull'altro prevale di solito un soprannome che, se la fortuna aiuta, diventa il contrassegno temuto di una pastorale dinastia. Tipico esempio, i Corrales. Il tempo e la necessità hanno finito col dare una certa legittimità al doppio cognome e infatti Sebastiano Sanna Carboni circoscriveva in lettere tonde lo stemma sabaudo nel timbro ufficiale d'ottone che Don Sebastiano chiudeva ogni sera gelosamente in un cassetto della scrivania. Poiché Don Sebastiano era notaio nel capoluogo di Nuoro. Chi fosse poi questa Carboni che aveva lasciato il suo nome in un timbro, nessuno avrebbe potuto dire. La madre di Don Sebastiano doveva essere morta presto e nulla è più eterno a Nuoro, nulla più effimero della morte. Quando muore qualcuno è come se muoia tutto il paese. Dalla cattedrale, la chiesa di Santa Maria, alta sul colle, calano sui 7.051 abitanti registrati nell'ultimo censimento i rintocchi che danno notizia che uno di essi è passato. 9 per gli uomini, 7 per le donne, più lenti per i notabili. Non si sa se a giudizio del campanaro o a tariffa dei preti, ma un povero che si fa fare su toccu pasau, il rintocco lento, è poco men che uno scandalo. L'indomani tutto il paese si snoda dietro la bara, con un prete davanti, 3 preti, l'intero capitolo, poiché Nuoro è sede di un vescovo, il primo frettoloso e gratuito, gli altri con 2, 3, 4 soste, prima del Camposanto, quante uno ne chiede, e veramente l'ala della morte posa sulle casette basse, sui rari e recenti palazzi. Poi, quando l'ultima palata ha concluso la scena, il morto è morto sul serio, e anche il ricordo scompare. Rimane la croce sulla fossa, ma quella è affar suo. E infatti nel cimitero, meglio nel camposanto dominato da una rupe che sembra una parca, non c'è una cappella, un monumento. Oggi non è più così. Da quando la morte ha cessato di esistere è tutto pieno di tombe di famiglia. Sa e Manca, quella di Manca, come si chiamava, credo dal nome del proprietario anticamente espropriato, è diventata, oltre le costose muraglie, oltre gli assurdi colonnati, la continuazione della città imborghesita. E così questa Carboni si era dissolta nel nulla, nonostante i 5 figli che aveva messo al mondo, e di lei non ricordavano neppure il nome di battesimo, protesi come erano ciascuno nell'avventura della propria vita. Del resto, oltre questa faticosa avventura, erano vivi essi stessi, sentivano come vive le persone che il destino aveva legato al loro carro, mogli, figli, servi, parenti. Don Sebastiano afferrò il lume a petrolio, grande globo bianco su un piede iridato, e si inoltrò per il vano della scala. Il buio era immenso, e col passo incerto un occhio tondo di luce vagava rapidissimo sul soffitto. 20 anni prima, egli aveva costruito quella casa su un terreno comprato da certi miserabili napoletani che il vento aveva spinto fino a Nuoro e il vento aveva respinto chissà dove. L'impresa non era stata semplice, con 7 figli maschi da gettare nel futuro e partendo, si può dire, da zero, in un mondo che di speranza non voleva assolutamente sentirne. Ma essere notaio in un paese è un privilegio inestimabile, perché, come si diceva, una procura fa bollire la pentola. E oltre quel ridicolo atto che è la procura, 3,50 lire di onorari, c'erano i testamenti, c'erano le vendite che già cominciavano a farsi per iscritto, poiché la parola perdeva valore. C'erano i contratti che quei signori del continente venivano a stipulare per il taglio dei boschi e la devastazione dell'isola. Costoro erano gente meravigliosa che trasformava in oro quel che toccava. Qualcuno però finiva col restare nell'isola, preso dalla sua demoniaca tristezza. Non pareva vero ad essi, abituati a quei notai affaristi del continente, di trovare un notaio che si qualificava romanticamente depositario della fede pubblica e procurava loro gli affari, trattava i prezzi coi proprietari, e tutto questo senza pretendere un soldo, anzi rifiutando ogni offerta oltre la tariffa dell'atto. Non importa, ciò che conta non è guadagnare molto, è spendere poco, anzi non spendere affatto se possibile. E possibile era per via dei capretti, degli agnelli che la buona gente mandava in regalo. Una volta, la prima e l'ultima volta, si era lasciato attrarre nel circolo degli ufficiali. Nuoro era anche sede di una guarnigione e si era seduto a un tavolo da gioco. Dopo mezz'ora, inadatto com'era, aveva perduto 30 lire. Aveva aspettato che la mano toccasse a lui, la dignità soprattutto, e allora si era alzato, resistendo a tutte le lusinghe. Tornato a casa, per 3 notti di seguito aveva fatto di suo pugno le copie destinate all'amanuense, fino a compensare le 30 lire. Così dicevano i maligni, le aveva pagate l'amanuense. Ma che importa? Qualcuno deve sempre pagare. Se con un soldo si compra un mattone, la casa viene su da sé. Già, sarebbe troppo bello. Il fatto è che la casa di un notaio non può essere come la casa di un contadino di Seuna, con la sua corte, il suo rustico patio, la catasta della legna, le loriche per il giogo e in fondo la cucina col focolare in mezzo alla stanza. Questa si è fatta da sé attraverso i secoli, come l'uccello si fa il suo nido. Don Sebastiano ha bisogno di un ingegnere, e l'ingegnere è là, nella casa di fronte, la casa signorile forse più vecchia di Nuoro, chiusa come un fortilizio, piena di donne e di matti, con le finestre sempre chiuse, le porte che si aprono solo per i segnali convenuti. Don Gabriele Mannu, come tutti i Mannu, era ricco e viveva in miseria. Ma era stato a Roma, aveva studiato ed era tornato ingegnere in un paese dove da 10 anni non si costruiva una casa. Quel terreno dei miserabili napoletani, quel notaio intraprendente, si offrivano alla sua pigrizia ancestrale fondata sulla diffidenza di se stesso prima che degli altri. Rispondeva sempre di no prima di sapere che cosa si volesse da lui, come un banco di prova e una sfida. E così stese disegni su disegni, calcoli su calcoli. Tutto bene, ma egli aveva in mente i palazzi di Roma, le scalee dove gli antichi salivano a cavallo, aveva letto. E così, invece di una casa, fece una scala, un vano immenso nel quale a ogni piano si aprivano dei buchi che erano stanze, una dentro l'altra, destinando al sacrificio e alla insofferenza la crescente famiglia. Vero è che la gente stupiva guardando di là dalla soglia di quell'atrio inutile e immenso e cominciava a favoleggiare di chissà quali ricchezze, anche se il capomastro andava dicendo che senza il suo provvidenziale intervento Don Sebastiano sarebbe dovuto entrare carponi nel suo palazzo, tanto bassa era stata concepita dall'ingegnere l'architrave che reggeva la porta. Per questo la discesa serale dallo studio al piano terreno era quasi un viaggio e per questo l'occhio tondo del lume a petrolio vagava su e giù per le volte al vacillare del passo. Ma finalmente si odono le risa, gli strilli, le liti e Don Sebastiano può spegnere il lume soffiando dall'alto nel suo lungo tubo di vetro entro il quale arde la fiamma. Un altro lume più grande ardeva nella stanza da pranzo, questo con un piede di bronzo che accoglieva un vaso simile a un'urna, ornato di trasparenti scene di caccia su uno sfondo lievemente azzurro. Un lume come quello oggi varrebbe chissà quanto, ma i Sanna, nel loro maledetto istinto di dissoluzione, non hanno lasciato la più piccola traccia del loro passato. La morte è eterna ed effimera in Sardegna, non solo per gli uomini, ma anche per le cose. Ardeva quel lume su un grande tavolo ovale che occupava quasi tutta la stanza, la credenza di mogano coi piatti buoni esposti di sopra e in un angolo la scodella coi soldoni di rame e le lire d'argento della spesa domestica, di sotto le grandi ostie del pane in enormi pile che ogni 15 giorni si rinnovavano, era incastrata nel muro divisorio dell'attigua cucina. Ma la luce che illuminava i visi dei 7 ragazzi, l'ultimo poco più che decenne, non veniva da quel lume, ma dalle elci ardenti del caminetto, dall'unica fonte di calore di tutta la casa. Donna Vincenza, moglie e madre, stava in un angolo, avvolta nei suoi panni neri, come si conveniva ai suoi 50 anni, esausta, ingrossata dalla maternità, il capo sempre chino sul petto. Ciascuno di quei figli era ancora come dentro le sue viscere e nel suo silenzio ascoltava le loro voci come i moti segreti e misteriosi di quando erano nel suo seno. Essi erano la sua vita, non la sua speranza, perché Donna Vincenza era una donna senza speranza. L'entrata di un padre nella stanza dei figli spegne in un mormorio le loro grida e le loro risate, specie quando i figli sono molti e il padre deve mantenerli e allevarli col suo lavoro, che glieli rende presenti e sconosciuti. Il pasto della sera era finito da un pezzo, seppur era mai cominciato, perché ciascuno mangia quel che vuole o quel che trova e allora che crede, o si formano tanti piccoli gruppi familiari, tante amicizie interne che procedono per conto proprio. Donna Vincenza si scaldava alle 5 una tazza di latte quando ancora non c'era nessuno e vi immergeva mezza ostia di pane. Don Sebastiano da 5 anni non cenava affatto e anzi da questa decisione era cominciata la dissoluzione del pasto serale. Da qualche tempo sentiva nel colmo del lavoro dei capogiri e le cure del dottor Ganga, il medico di famiglia, alcolizzato come la metà dei nuoresi, ma intelligente, non avevano servito a nulla. Allora, un bel giorno, era partito niente di meno che per Sassari, 120 chilometri di distanza, senza dir nulla a nessuno, ed era rimasto via 2 giorni, gettando tutti nella disperazione. Finalmente era tornato e come saluto aveva detto che non avrebbe cenato più. Consiglio del clinico. Le strida di Donna Vincenza salirono al cielo, ma non sfiorarono neppure il cuore di Don Sebastiano. Cessarono i capogiri e cessarono le cene, e fu da allora che egli prese a trascorrere l'ora del pasto serale nello studio dove lo abbiamo trovato. Il vuoto intorno a Donna Vincenza si fece più ampio. Così anche quella sera si avviò al caminetto e passando mise 2 dita gelate tra la camicia e il collo d'uno dei figli. Era un gesto atteso che faceva sussultare i figli più piccoli e irritava ormai i più grandi. Ed era certo uno scherzo, ma nel fondo si sentiva il compiacimento di mettere in mostra il suo sacrificio, o almeno la sua virtù, di ricordare il freddo che egli soffriva mentre gli altri se ne stavano al caldo, e per merito suo. «Basterebbe che ti facessi portare un braciere», diceva dal suo silenzio donna Vincenza, ed era una cosa ovvia, ma che appunto per questo non andava detta. Si sedeva allora anche egli al tavolo, con le spalle rivolte al caminetto, che dorava la sua testa calva, e cominciava a parlare. Parlava di solito delle cose che aveva letto sul giornale, non di cose politiche, si intende. La politica a quei tempi, per le persone del suo ceto, che erano nate per lavorare e per raccogliere il frutto prezioso e costoso del lavoro borghese, letteralmente non esisteva. La politica era il governo in carica, quelle lontanissime e favolose persone che si chiamavano ministri, e che per il solo fatto di essere ministri avevano tali meriti che si sottraevano a ogni giudizio. Del resto, chi faceva politica a Nuoro? Quei 4-5 avvocati che si presentavano eternamente candidati, ciascuno con la sua scheda personale, il nome e cognome sormontato da un simbolo per gli analfabeti. L'avvocato Manca aveva un aratro, l'avvocato Corda un quadrifoglio che non riusciva a portargli fortuna. Non facevano propriamente politica. Aspiravano a parlare in un'aula più ampia di quella del tribunale, a essere magari uno di quei ministri. Solo i preti, lo si percepiva oscuramente e come il riflesso di un'ondata lontana, portavano un candidato che non era avvocato, né tra gli avvocati lo avrebbero trovato, ma non riuscivano mai a farlo eleggere. Uomini come Don Sebastiano non solo non si mischiavano con la politica, ma non votavano neppure, perché gli uomini del suo ceto avevano il dovere di non votare. Come notaio, Don Sebastiano raccoglieva i nomi, 400-500, dei proponenti, e la scala dello studio era in quei giorni una processione, e ci rimetteva anche la carta bollata, perché imparzialmente non si faceva pagare da nessuno. Donna Vincenza diceva che sarebbe stato ugualmente imparziale se si fosse fatto pagare da tutti, e anche questo era ovvio, ma perché ovvio non andava detto.